cimitero dei libri dimenticati. Ricordo ancora il mattino in cui mio padre mi fece conoscere il cimitero dei libri dimenticati. Erano i primi giorni dell'estate del 45 e noi camminavamo per le strade di una Barcellona intrappolata sotto cieli di cenere e un sole vaporoso che si spandeva sulla Rambla di Santa Monica in una ghirlanda di rame liquido. Daniel, quello che vedrai oggi non devi raccontarlo a nessuno, disse mio padre, neppure al tuo amico Tomas, a nessuno. Neppure alla mamma? Domandai sottovoce. Mio padre sospirò, trincerandosi dietro il sorriso dolente che lo seguiva come un'ombra nella vita. Ma certo, rispose a capochino, per lei non abbiamo segreti, a lei puoi raccontare tutto. Subito dopo la guerra civile, il colera si era portato via mia madre. L'avevamo sepolta a Montsouk, sotto una pioggia battente, il giorno in cui compivo 4 anni. Ricordo che quando domandai a mio padre se il cielo piangeva, gli mancò la voce. 6 anni dopo, l'assenza di mia madre era ancora un grido muto, un vuoto che nessuna parola poteva colmare. Mio padre e io abitavamo in un piccolo appartamento di Calle Sant'Anna, vicino alla piazza della chiesa, sopra le librerie specializzate in edizioni per collezionisti e libri usati che era stata del nonno. Un magico bazar che un giorno sarebbe diventato mio, diceva mio padre. Sono cresciuto tra i libri, in compagnia di amici immaginari che popolavano pagine consunte, con un profumo tutto particolare. Da bambino, prima di addormentarmi, raccontavo a mia madre come era andata la giornata e quello che avevo imparato a scuola. Non potevo dire la sua voce, né essere sfiorata dalle sue carezze, ma la luce e il calore del suo ricordo riscaldavano ogni angolo della casa. E io, con la fede di chi conta ancora gli anni sulle dita della mano, credevo che se avessi chiuso gli occhi e le avesse parlato, lei mi avrebbe ascoltato ovunque si trovasse. A volte mio padre mi sentiva dal soggiorno e piangeva di nascosto. Ricordo che quella mattina di giugno mi ero svegliato gridando. Il cuore mi batteva come se volesse aprirsi un varco nel petto e fuggire via. Mio padre, allarmato, era corso in camera mia e mi aveva preso tra le braccia per calmarmi. Non mi ricordo più il viso della mamma. Non mi ricordo più il viso della mamma, disse con un filo di voce. Mio padre mi strinse forte. Non preoccuparti, Daniel. Lo ricorderò io per tutte e due. Ci guardammo nella penombra, cercando parole che non esistevano. Per la prima volta notai che mio padre stava invecchiando e che i suoi occhi tristi erano rivolti al passato. Si alzò in piedi e aprì le tende per far entrare la tiepida luce dell'alba. «Su, Daniel, vestiti. Voglio mostrarti una cosa», disse. «Adesso, alle 5 del mattino». «Ci sono cose che si possono vedere solo al buio», rispose, sfoderando un sorriso enigmatico che doveva aver preso in prestito da un romanzo di Dumas. Per la strada si udivano solo i passi di qualche guardia notturna. I lampioni delle Ramblas si impallidivano accompagnando il pigro risveglio della città, pronta a disfarsi della sua maschera di colori slavati. All'altezza di Calle Arco del teatro svoltammo in direzione del Raval, passando sotto l'arcata avvolta nella foschia. E percorremmo quella stradina simile a una cicatrice, allontanandoci dalle luci delle Ramblas, mentre il chiarore dell'alba cominciava a disegnare i contorni dei balconi e dei cornicioni delle case. Mio padre si fermò davanti a un grande portone di legno intagliato, annerito dal tempo e dall'umidità. Di fronte a noi si ergeva quello che a me parve il cadavere abbandonato di un palazzo, un mausoleo di eche e di ombre. Daniel, quello che vedrai oggi non devi raccontarlo a nessuno, neppure al tuo amico Tomas, a nessuno. Ci aprì un ometto con la faccia da uccello rapace, i capelli d'argento. Il suo sguardo si posò su di me impenetrabile. Buongiorno, Isaac. Questo è mio figlio Daniel, disse mio padre. Presto compirà 11 anni e un giorno manderà avanti il negozio, all'età giusta per conoscere questo posto. Isaac ci invitò a entrare con un lieve cenno del capo. Dall'atrio, immerso in una penombra azzurrina, si intravedevano uno scalone di marmo e un corridoio affrescato con figure di angeli e di creature fantastiche. Seguimmo il guardiano fino a un ampio salone circolare, sovrastato da una cupola da cui scendevano lame di luce. Era un tempio tenebroso, un labirinto di ballatoi con scaffali altissimi, zeppi di libri, un enorme alveare percorso da tunnel, scalinate, piattaforme e impalcature. Una gigantesca biblioteca dalla geometria impossibile. Guardai mio padre a bocca aperta e lui mi sorrise ammiccando. Benvenuto nel cimitero dei libri dimenticati, Daniel. Sui ballatoi e sulle piattaforme della biblioteca scorse una dozzina di persone. Alcune si voltarono per salutarci. Riconobbi alcuni colleghi di mio padre, librai antiquari come lui. Ai miei occhi di bambino erano una confraternita di alchimisti che cospiravi all'insaputa del mondo. Mio padre si chinò su di me e, guardandomi negli occhi, mi parlò con il tono pacato riservato alle promesse e alle confidenze. Questo luogo è un mistero, Daniel, un santuario. Ogni libro, ogni volume che vedi possiede un'anima. L'anima di chi lo ha scritto e l'anima di coloro che l'hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie a esso. Ogni volta che un libro cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo spirito acquista forza. Molti anni fa, quando mio padre mi portò qui per la prima volta, questo luogo era già vecchio, quasi come la città. Nessuno sa con certezza da quanto tempo esista o chi l'abbia creato. Ti posso solo ripetere quello che mi disse mio padre. Quando una biblioteca scompare, quando una libreria chiude i battenti, quando un libro si perde nell'oblio, noi, custodi di questo luogo, facciamo in modo che arrivi qui. E qui i libri che più nessuno ricorda, i libri perduti nel tempo, vivono per sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito. Noi li vendiamo, li compriamo, ma in realtà i libri non ci appartengono mai. Ognuno di questi libri è stato il miglior amico di qualcuno. Adesso sono soltanto noi, Daniel. Pensi di poter mantenere il segreto? Il mio sguardo si smarrì nell'immensità di quel luogo, nella sua luce fatata. Annuì e mio padre sorrise. E sai qual è la cosa più bella? Scosse la testa in silenzio. La tradizione vuole che chi viene qui per la prima volta deve scegliere un libro e adottarlo, impegnandosi a conservarlo per sempre, a mantenerlo vivo. È una promessa molto importante, spiegò mio padre. Oggi tocca a te. Mi aggirai in quel labirinto che odorava di carta vecchia, polvere e magie per una mezz'ora. Lasciai che la mia mano sfiorasse il dorso dei libri disposti in lunghe file, affidando la mia scelta al tatto. Tra titoli ormai illeggibili, scoloriti dal tempo, notai parole in lingue conosciute e in decine d'altre che non riuscivo a identificare. Vagai lungo gallerie, ballatoi a spirale, riempiti da centinaia, migliaia di volumi, che davano l'impressione di sapere di me molto più di quanto io sapessi di loro. Mi balenò in mente il pensiero che dietro ogni copertina si celasse un universo infinito da esplorare, che fuori di lì la gente sprecasse il tempo ascoltando partite di calcio e sceneggiati alla radio, paga della sua mediocrità. Non so dire se dipese da queste riflessioni, dal caso o dal suo parente nobile, il destino. Ma in quell'istante ebbi la certezza di aver trovato il libro che avrei adottato, o meglio, il libro che avrebbe adottato me. Sporgeva timidamente da un ripiano, rilegato in pelle color vino, col titolo impresso sul dorso a caratteri dorati. Accarezzai quelle parole con la punta delle dita e le lessi in silenzio. Culian Crax, l'ombra del vento. Non conoscevo né il titolo né l'autore, ma non mi importava. Era una decisione irrevocabile, da entrambe le parti. Presi il libro e lo sfogliai con cautela. Le sue pagine palpitarono come le ali di una farfalla, a cui viene restituita la libertà, sprigionando una nuvola di polvere dorata. Soddisfatto della scelta, tornai sui miei passi, ripercorrendo il labirinto con il volume sotto braccio e un sorriso sulle labbra. Forse l'atmosfera magica di quel luogo mi aveva contagiato, ma ebbi la sicurezza che quel libro mi aveva atteso per anni, probabilmente da prima che nascessi. Hoy pasar te vi por mi gran ciudad y en vos descubrí que la copia sos de una que olvidé y que como vos porteña fue. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la bella que paseaba majestuosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, y dona cada copia fiel de aquella estampa que hace tiempo que se fue. Di Caglia Sant'Anna mi rifugiai in camera mia per fare conoscenza col nuovo amico. In men che non si dica, la storia mi catturò. Era la vicenda di un uomo che cercava il suo vero padre, di cui aveva appreso l'esistenza solo grazie alle parole pronunciate dalla madre in punto di morte. Il racconto di quella ricerca si trasformava in un'odissea fantasmagorica. Il protagonista lottava per ritrovare l'infanzia e la gioventù perdute, dalle quali a poco emergeva l'ombra di un amore maledetto, destinato a perseguitarla fino all'ultimo dei suoi giorni. La struttura del romanzo mi ricordava una di quelle bambole russe che racchiudono innumerevoli miniature di se stesse. La narrazione si frammentava in mille storie, come se il racconto fosse entrato in una galleria di specchi e si fosse scisso in decine di riflessi, pur mantenendo la sua unità. Il tempo scivolò via come in un sogno. Molte ore più tardi, catturato dalla vicenda, udì appena i rintocchi in lontananza della mezzanotte dal campanile della cattedrale. Pagina dopo pagina, nella luce color rama della lampada, mi lasciai trascinare in un turbine di emozioni sconosciute, in un mondo misterioso e affascinante, popolato da personaggi non meno reali dell'aria che respiravo. Mi abbandonai a quell'incantesimo fino a quando la brezza dell'alba lambì i vetri della finestra e i miei occhi affaticati si posarono sull'ultima pagina. Solo allora mi sdraiai sul letto, il libro appoggiato sul petto, e ascoltai i suoni della città addormentata posarsi sui tetti, screziati di porpora. Il sonno e la stanchezza bussavano alla porta. Ma io resistetti, non volevo abbandonare la magia di quella storia, né per il momento dire addio ai suoi protagonisti. Un giorno sentii dire da un cliente della libreria che poche cose impressionano un lettore quanto il primo libro capace di toccargli davvero il cuore. L'eco di parole che crediamo dimenticate ci accompagna per tutta la vita ed erige nella nostra memoria un palazzo al quale, non importa quanti altri libri leggeremo, quanti mondi scorriremo, quante cose apprenderemo, dimenticheremo, prima o poi faremo ritorno. Per me, quel libro sarà sempre il romanzo che avevo salvato dagli oscuri corridoi del cimitero dei libri dimenticati. Giorni di cenere, 1945-1949. Un segreto conta quanto coloro da cui dobbiamo proteggerlo. Il primo impulso, appena mi svegliai, fu di correre a confidare al mio miglior amico l'esistenza del cimitero dei libri dimenticati. Tomás Aguilar era un mio compagno di scuola che dedicava tutta la sua intelligenza e il suo tempo libero all'invenzione di marchingegni dalle scarse applicazioni pratiche, come il giavellotto aerostatico o la trottola dinamo. Con chi altro avrei potuto condividere quel segreto? Sognando a occhi aperti, immaginavo Tomás e me, muniti di torce e bussola, decisi a svelare i misteri di quella catacomba bibliografica. Tuttavia, fedele alla parola data, decisi di ricorrere a quella che i romanzi polizieschi definivano un diverso modus operandi. A mezzogiorno raggiunsi mio padre in negozio per chiedergli informazione sul libro e su Julian Carax, convinto che fossero famosi in tutto il mondo. Intendevo procurarmi altre opere dell'autore e leggermele tutte nel giro di una settimana. Perciò mi stupì molto scoprire che mio padre, libraio esperto e buon conoscitore dei cataloghi editoriali, non aveva mai sentito nominare né L'ombra del vento né Julian Carax. Incuriosito esaminò la pagina del colofon. A quanto pare si tratta di uno dei 2500 esemplari pubblicati a Barcellona dalla casa editrice Cabestané nel dicembre del 1935. La conosci? Ha chiuso diversi anni fa, ma l'edizione originale non è questa, bensì quella uscita a Parigi nel novembre dello stesso anno per i tipi di Galliano e Noval. Qualcosa non quadra. Allora è una traduzione? Domandai sconcertato. Qui non lo dice, a prima vista non sembrerebbe. È un libro scritto in spagnolo e pubblicato prima in Francia? È già capitato. Con i tempi che corrono, affermò mio padre, forse Barceló ci può aiutare. Gustavo Barceló, proprietario di una libreria cavernosa in Calle Fernando, era il capo carismatico dei librai antiquari. Teneva sempre in bocca una pipa spenta che fondeva nell'aria aromi orientali e amava definirsi l'ultimo dei romantici. Barceló si vantava di essere un lontano discendente di Lord Byron, benché fosse originario di Caldas de Montubi, e forse, per sottolineare questo fatto, si vestiva come un dandy dell'Ottocento, sfoggiando foulard di seta, scarpe di vernice bianca e un inutile monologo che, a detta delle male lingue, non si toglieva neppure quando andava a cesso. In realtà, il suo unico consanguineo di un certo peso era suo padre, un industriale arricchitosi con i mezzi più o meno leciti alla fine del secolo precedente. Mio padre mi spiegò che Gustavo Barceló avrebbe potuto vivere di rendita e che per lui la libreria era più che altro passione. Amava i libri più della sua vita e, benché lo negasse, se un cliente entrava nel suo negozio e si innamorava di un volume che non poteva permettersi, lui abbassava il prezzo fino a consentirgli di acquistarlo o glielo regalava addirittura, nel caso lo ritenesse un vero lettore e non un dilettante farfallone. Inoltre, Barceló possedeva una memoria da elefante, una pedanteria insopportabile, ma nel suo campo era un'autorità. Quel pomeriggio, dopo aver chiuso il negozio, mio padre mi propose di passare dal caffè Osquatre Katz in Calle Monceau, dove Barceló e il suo cenacolo si riunivano a dissertare di poeti maledetti, lingue morte e capolavori abbandonati al lavorio dei tarli. Osquatre Katz si trovava a due passi da casa nostra ed era uno dei posti di Barcellona che amavo di più. Lì, nel 1932, si erano conosciuti i miei genitori e io, almeno in parte, attribuivo la mia esistenza al fascino di quel vecchio caffè. Draghi di pietra vigilavano la facciata nascosta in un alternarsi di ombre e i suoi lampioni a gas congelavano il tempo e i ricordi. All'interno si respirava l'aria di un'altra epoca. Ragionieri, sognatori, apprendisti di genio sedevano ai tavoli con i fantasmi di Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Federico García Lorca, Salvador Dalí. In quel locale anche un pezzente poteva sentirsi protagonista della storia al modico prezzo di un caffè. «Arriva Sempere, il figliol prodigo!» esclamò Barcelò vedendo entrare mio padre. «A cosa dobbiamo l'onore?» «L'onore si deve a mio figlio Daniel, Don Gustavo, che ha appena fatto una scoperta interessante.» «Bene, allora sedetevi con noi. Non possiamo non celebrare questa effemeride.» «Effemeride», sussurrai a mio padre. «Barcelò usa solo parole sdrucciole», mi rispose a bassa voce. «Fai finta di niente, altrimenti si monta la testa.» I suoi discepoli ci fecero posto. Barcelò, che ci teneva a mostrarsi munifico, insistette per offrirci qualcosa. «Quanti anni ha l'erede?» chiese Barcelò. «Quasi 11», dichiarai. Barcelò mi sorrise ironico. «Cioè 10. Non aumentarti l'età, marmoglio, ci pensa già la vita.» Ci fu un mormorio di approvazione. Barcelò chiamò il cameriere, un uomo talmente vecchio che lo si sarebbe potuto dichiarare monumento storico. «Per il mio amico Sempere un cognac, di quello buono, e per il figlioletto che deve crescere un frappè. Ah, porti anche degli assaggini di prosciutto, ma non come quelli di prima, chiaro? Se vogliamo della gomma ci rivolgiamo alla Pirelli», ruggì il libraio. Il cameriere annuì e si diresse verso il bancone, strascicando i piedi. «Come si fa, dico io, a trovare un lavoro in questo paese se non mandano in pensione neanche i morti?» commentò il libraio. «Basta vedere il SID, non c'è niente da fare.» Succhiò la pipa spenta mentre il suo sguardo d'aquila si posava sul libro che tenevo in mano. Nonostante quei modi da istrione, Barcelò fiutava una buona preda come un lupo l'odore del sangue. «Vediamo cosa mi portate», disse con finto disinteresse. Rivolse un'occhiata a mio padre e lui annuì. Senza esitare, diede il libro a Barcelò. Il libraio lo afferrò con mani esperte. Le sue dita si da pianista scivolarono sulla copertina valutando lo spessore e le condizioni del volume. Poi Barcelò guardò la pagina del colofon con intensità poliziesca e un sorriso distaccato per almeno un minuto. Gli astanti lo osservavano in silenzio, come in attesa di un miracolo o del permesso per respirare di nuovo. «Carax, interessante», mormorò. Tese la mano per riprendermi il libro. Barcelò inarcò le sopracciglia e me lo restituì con un sorriso glaciale. «Dove l'hai trovato, ragazzino?» «È un segreto», replicai, sapendo che mio padre stava ridendo sotto i baffi. Barcelò aggrottò la fronte e lo guardò. «Mio caro Sempere, dal momento che la stimo profondamente e in virtù della nostra amicizia fraterna, facciamo 200 pesetas e non ne parliamo più.» «Un affare? Lo deve trattare mio figlio», affermò mio padre. «Il libro è suo.» Barcelò mi rivolse un sorriso da lupo. «Che ne dici, ragazzino? 200 pesetas sono una bella sommetta per una prima vendita. Sempere, tuo figlio, la farà a concorrenza.» I presenti risero. Barcelò mi guardò compiaciuto e tirò fuori il portafoglio di pelle. Contò le 200 pesetas, che all'epoca erano un bel gruzzolo, e mi tese le banconote. Io mi limitai a scrollare la testa. E Barcelò si accigliò nuovamente. «Ti ricordo che la cupidigia è un peccato mortale», aggiunse. «Forza. 300 pesetas e ti apri un bel libretto di risparmio. Alla tua età bisogna cominciare a pensare al futuro.» Scrollai di nuovo la testa e Barcelò lanciò un'occhiata di fuoco a mio padre attraverso il monocolo. «Non mi guardi così», disse lui. «Io sono qui solo in veste di accompagnatore.» Barcelò emise un profondo sospiro e mi scrutò. «Allora, bamboccio, ti dispiacerebbe dirmi cosa vuoi?»